Antonello! Ehi, signor Gio Maria, buonasera! Ehi, signore, buonasera! E beh, come si va? Come si va? Ehi, come ti si anda? Che buccia ambassigiata, che buccia bugiate! Come ti vuoi si anda? No, stasera non sono uscito dal cipone, stamattina siamo stati a Piazza del Cigno e abbiamo fatto un bel giretto. Dopo un po' la mia figlia e è mezzogiorno e mezzo qua siamo arrivati qua. Ci ho camminato stamattina là, ho fatto due o tre volte in quella piazza, piazza dei segni, da una parte all'altra e così via. Sì, anda, vai, anda. Va bene, vabbè che c'è freschetto stasera. Ma... Aspetta che non scudere l'acqua e congiudeva? Ah, sa fare solo, fa sempre bene l'acqua, chi la fa meglio è, almeno si rinfresca un po', certo. Lì, io mi sono alzato alle 4 e stavo sempre al computer, a bandiera da una parte all'altra, e così via, fa abbassare un tempo, capito? Giulia, ma siamo così con tempo. Oh, a Regno Unito ce ne sono un saccaccio, gatto. È belli, eh. È belli veramente. Pensi, sono tutti omologati quelli. Adesso mi sto guardando mie, ce l'ho davanti, l'897. Come si chiama? L'899, l'Intec. Già è bellino però, dai. Ti dà tutto, ti dà. Tu c'hai il microfono che puoi mettere come auricolare e con il microfono lungo anche, che arriva fino alla bocca. Gira, prenderlo, almeno siamo tranquilli, abbiamo la roba omologata e quei zecchi vuol dire che li manderemo in pensione. Io ho chiamato stamattina, la signora mi ha confermato che ci vogliono quelli marcati c'è, omologati c'è, nella targhetta. Mi ha detto, dice, i vecchi, no, di non buttarli via, di non metterli lì, di metterli da una parte, anche se sono sempre omologati quelli. Però solo che no, nel coso non si può più adoperarli. In cambio sempre di tenere il nuovo, quelli marcati c'è, ecco, mi ha detto, di non buttarli, di metterli a una parte, noi abbiamo fatto la collezione, tenerli a una parte e non siano attaccati, hai compreso? Allora facciamo così, ne ordiniamo due, però che abbiano quella marca della C. Quando si decide lo ordiniamo e ce lo prendiamo, lo prendiamo tutti insieme, là. Facciamo così. Aspetta che guardo a fine mese, guardo. E poi penso di ordinarlo a fine mese. Devo vedere cosa mi comporta. cosa faccio. E poi vediamo. Tanto arriveranno in 2 o 3 giorni, arriveranno. Se in Italia va bene, ma se il Regno Unito ci mette 10-12 giorni, ma anche perché ce ne sono belli lì, ce ne sono belli il Regno Unito, c'è una pagina, ce ne saranno una ventina, belli di tutti i tipi, se tu guardi, sono veramente belli, adesso vediamo un po', comunque. Lo prendo anch'io perché è giusto che sia fatto così, dai, almeno me lo piaccio e ciao, capito il tuo. Quando si decide io sono sempre pronto, quando sei disponibile me lo dici e noi andiamo due insieme, capito? Facciamo così, tanto vedo il prezzo e cosa c'è di spedizione. Pare che sia 87 euro più 8 euro di spedizione in Bari, è quello che ho visto io su Amazon, come si chiama. E poi c'è una persona che trasporta anche di più e già mi sembra che l'ho visto quello lì. E ce ne siamo staccati, ecco, controlla bene magari, eventualmente, già controllo pure io e mi risegno, capito? E vediamo un po', ok? Sì, Giovanni, già siamo qua, le cose. Intanto ti danno anche due auricolari, sono uno da attaccare al coso, che c'ha un'applicazione, un microfono che fai ascolta anche, ecco il coso lì, che ti danno dentro la scatola, e più il microfono grande originale suo, e poi c'è tutto il resto, staffa, cavo e il coso, tutte le bits. E cosa attaccare il microfono? Perché c'è il box, ho capito. C'è il box, ti metti il ricordo e puoi parlare tranquillo, anche se lo metti in macchina, se fare tranquillo e non c'è bisogno di prendere il microfono in mano, capito? Infatti quello è comodo delle cose, ed è omologato, 40 canali, AM/FM. Poi si può anche, se vuoi, si può modificare, però è meglio non toccarlo. No, a toccarlo no, è troppo scopo, capito? No, si lascia così, perché i quattro fatti sono ben matti, i 27 quattro fatti vanno bene, so, scatta. E a voglia, ce ne per i porci, che cosa, per parlare fra di noi, a voglia. E allora, a vero è. Dimmi una cosa, Giovanni, ma le cose mandatetele a Luca. Non ho capito. Luca, fotografia, mandatetela. Sì, ragazzi, metterete un telefono, mettete un capo. L'ho te la faccio stamattina, non è raggiungibile. Infatti, dopo il telefono, me ne mandate poco di cose, ragazza. Ma un baby, un baby. Sì, se no non abbiano il telefono a me. Ma vado a mancanza se facendo. Ammazzare un tempo, dai, ammazzare un tempo e chiedi, non lo mette qua, no, dai. E quindi magari fa solo amico, cioè, il marito della cugina o cosa è. Chiatta, almeno si svaga col telefono, dai. E cosa vuoi fare? Sta va bene ugualmente, tu. Infatti, se non si divertiva, quando si divertì. Ma non si sta divertendo, sta lavorando, capito? Infatti stamattina l'ho telefonato, evidentemente stava lavorando, ho detto aveva vicino il telefono, non mi ha risposto. Dopo più tardi gli faccio la telefonata di nuovo. Solito per lavorare da casa della figlia o di qualcuno, boh. Ah, cugina, mi sembra una cognata, boh, non sono sicuro. C'è un medicamere, capito? Mi sembra che c'è una palazzina intera e sta pulendo tutto. Ma da pure il mattone, dai, diciamo, ma da pure il mattone, siete già mandati. Ma fate vedere pure che andiamo a niente. Lo spuntino ha detto. Infatti, è stato il tipo che lui sta mandando. Vabbè, almeno si paga. Tanto ci sono pochi giorni, penso che finirà dopo se la ritorna, capito? Forse la cognata, boh, non lo so, e mi sembra, a quanto mi sta dicendo mia moglie, dice che è la sorella della moglie, mi sembra, se l'abbiamo, se l'ha capito male lì. Questo non lo so, non me l'ha detto lui a me. Vabbè, sia che ci sia, l'importante è che lavori e tranquillo. No, Mari, ma funzionando sta? Sì, che sta funzionando. A chi mi vengo lo spirito, mi ha dato, me ne do rendere io. Perché deve essere la propagazione che ne fa quell'effetto, capito? L'abbattimento. Fagli su. No, qua sta arrivando il segnale a Puglia. 6920, mi immagino. Perché mi sono visto parlando e lo svito tornando indietro. Il mio, questo lo sai, lo smitter quando parlo va a fondo scala dei colpi brutali, Gesù Maria, c'è quanto curvo, peggio del Galaxy. c'è una propagazione proprio fenomenale la sera. Su 34 sono sempre i portoghesi e gli spagnoli, e anche le cose, anche le altre, come si chiama, però sono i portoghesi e gli spagnoli sempre su 34, i due SB. Ieri stavo ascoltando anche la parte della Germania, nel Degoso, chiari stavano parlando, adesso è un italiano, chi la fa vedere in italiano la fa vedere, i USB. Ce ne sono italiani che parlano anche, ce n'è uno da Stoccarda, italiano, che quello parla molto spesso, l'anno scorso lo sentivo quasi tutti i giorni, tutte le sere, da Stoccarda, e lui è da un mese che abita lì a Stoccarda, c'ha tutta la famiglia, e l'hanno dato la concessione, perché lui parla anche bene il tedesco, la concessione gliel'hanno data, tanti, c'ha residenza in Germania, capito? Così che c'ha la licenza, per cui può parlare tranquillo, e infatti ha piazzato la Mantova, dice che ha piazzato sul tetto. Ha fatto bene. Ha fatto benissimo, ha fatto così. Sente la dottor di Rubi. E poi sul coso, sul 35, io ieri stavo ascoltando, ma c'era questo calabrese, come la so che la pompa nel volto, la pompa. Guarda, c'è la propagazione. A momenti arriva fortissimo e devi anche abbassare il volume. A momenti magari calo, secondo la propagazione, poi ci sono quei forti, magari chissà quanto stanno buttando fuori, e per cui arrivano forti molto fissi quelli lì. Però anche certe volte anche quelli che hanno carica, si abbassa la propagazione e rimangono bassi anche loro. Questa qua, poi l'altra volta ho sentito questo radioamatore che era venezuelano, sulla 27, ma forte però. Da Venezuela, era venezuelano, mi sembra che abbia tutta completa la 27, noi ne abbiamo un pezzo solo della 27, capito? E l'altra l'America, capito? Ma no, ce l'ha tutta la 27 completa, per cui arrivano sempre bene qua. Infatti, ma su 35 arrivi a volte arrivi a. Parlava in italiano, stava parlando. Infatti è arrivato a mandare un paio di cose. Aspetta un attimo Giomari, che c'è il telefono. Giomari, ascolta, io ti devo lasciare, che devo andare a prendere la signora. Vai, sto è acceso qua, mi sto guardando il computer. E appena torno già ti chiamo. Grazie. Gian Maria. degli abbati, sta uscendo basso. A cosa intendo? A chi è il signor Tony? Sì, signor Bacchì. E come ti anda? Sì, è una pioggia, questa pioggia. Buonasera, signor Tony. Buonasera per gli amici che sono in ascolto. E buonasera a quelli che non ascoltano. Sì, sì, se muoio e tu. Chi si accentra meglio pure? Eh? Una di noi stava lavorando. Chi è stato? E allora? E allora. E poi telefonato a Cagliari? Sì, ti ho telefonato per quelli maledetti, che ci vogliono quelli marchiati c'è, emologati c'è, e gli altri emologati di metterli a una parte, anche nello scaffale, l'importante è che non siano attaccati a nessun posto, per quelli non ci fanno nulla loro, però devono essere in stand by, hai compreso, a riposo, ci vogliono quelli marcati c'è. Adesso poi devo fare una cosa, nel pannello con un po' di pistola bianca ci faccio c'è, certo mi scrivo. Bacchi, sono cambiate le leggi, quindi se dobbiamo essere anche a loro coso. E bisogna tenersi in comodità. Io ne vedo uno e non curtiamo bene. Infatti, no, non ti volevo prendere, stavo guardando su internet ieri sera, però non ci siamo. Io l'ho visto, Intec 899. Ma non l'ho trovato quello, Intec, l'ho trovato anche quello, 899, dove l'hai trovato? Su eBay? C'è anche su eBay, però io l'ho visto su eBay e su Amazon. Amazon, poi ci guardo. Costa 87,99 e più 8 euro di spedizione. Intec 88. Intec, emologato. Quindi omologato qualcosa intendo loro, io ho dedicato, emologato c'è. Emologato c'è, c'è il coso, emologazione proprio, dietro, c'è marcato c'è anche. Ed è molto bello, c'ha anche il coso dentro la scatola, c'è anche il microfono auricolare, c'è il microfono che si appiccica anche al cambio dove vuoi. C'ha due microfoni, uno auricolare con il microfono che arriva fino alla bocca. Ma è presente quello tipo con le cuffie e il microfono, tipo quello, con due spinotti che si attaccano sopra e si toglie e va in box. Pronto, voglio sapere, 8, vuol dire? 899. 899, no, poi lo stesso. E poi ci sono anche quelli Midra dei miei, che ci sono, che sono ubili lo stesso, emologati. E anche Midra, c'è anche Toto, c'è anche un'altra marca, insomma intorno a 130, 140, 200 euro. No, quelli che sto dicendo io, Midra, costano, arrivano sino a 99, arrivano, quelli che sto dicendo io. Ce ne sono anche che costano più poco. Ah, capito, va. Bisogna vedere un po', perché prendere lo devo prendere. E già ci vediamo e te lo faccio vedere nel telefono o col tablet te lo faccio vedere. Perché per lui si può tirare benissimo. Prima che cercano una cosa di prezzo, adesso magari vede la fregata. Ehi, no, sei giuro. No, sei giuro. Bacchi. Tanti barattini, questi omologati che stiamo usando, ce la sappiamo un altro. No, si dice, li ho buttati, ecco, tenerli, ho uno scaffale, ho un abbassi, e no, non ti dicono nulla, non ti possono fare nulla, io ho chiesto, ma non è che poi, no, basta che non siano attaccati loro, ma non detto, ne ha corrente, ne ha, invece ha una parte, e non dicono nulla loro. Buonasera Figaro, buonasera. Come si va, come si fa? Qui li deve portare al Pidocchio, si è fatta Graziano a prenderli. Ah, così è. E cosa ne fa? Eia, eia, così è. Infatti, facendo si ripiglia da voi. E allora, Bacchì, a piove? Ah, sembra che sia molto alto. Ma non ci piove, sta bene. Oppure sembra che piova. Da sabo fa che zappa, ma chi ha fatto di vento? Va bene, no, fa male. Male, questa acqua mi ha rovinato mezzo mondo. Mi ha messo culo per terra, detto il parole. Ehi, sì, da. Ancora gli fa bene, dai. Perché se lo fa adesso non lo fa più poi, così che in realtà ci siamo male. Ma quello sì, se non lo fa adesso non lo fa più, se lo vediamo male. No, solo che fa, un giorno fa solo, un giorno fa freddo, un giorno fa caldo, eh? E mi ha rovinato la cultura. Che non ha problematore per la campagna, vero so, tranquillo sì. Infatti, io non ho problemi, ma è meglio che pure ho fatto di decane, e non ne dico più, basta, non mi interessa più. Abbiamo solo il problema, il baracchino e basta. Sì, se no, è da maniera, ma... Oh, non sai come ti fare di là, vacca, ma tu te le immagini che io scudio la batti e devo comprare roba nuova, ma chi? Ma è una presa tutta per il fondetto, mercato c'è. Ho un gatto questo qui, ma le gatto sì a lui, alla zoppa, io. Non sanno a quale parte prendere i quattrini, non sanno come fregarsi quei pochi piedettini che abbiamo, dice, piace chiacchierare, paga. Vabbè, dove ti puoi, meglio visto che è un malato. Ma non faranno che ci rubiglia niente, ci rude viene biglia, non noi. Purtroppo è l'Unione Europea che le che le offende. A chi lo sa come si fa le dirà, ha visto? Chi lo sa di tutti che industrie, così che a voi come si fa a lavorare? La Italia c'è la ciocca, noi andiamo con questo. E così, e allora adesso ti obbligano a comprare un baracchino omologato a te, capito? E PMR come ce ne devi comprare? E PMR se dico che potrei stare un cazzoletto, oh, anche quello, e cosa fai? A quello senti, a quell'altro non lo senti, così che cosa ne fai? Oh, non si sa, ma io non ho guardato più niente. Che cosa, piccolo, 500 mila vatt. E che si, da un avvocato c'è, PMR, un avvocato c'è, 3 vatt. E beh, dovrebbe stare in forma l'Unione Europea, quello lì si potrebbe usare, penso io. Ma se la legge diceva, prima, adesso non so come sia, 500 mila vatt, mezzo vatt. Adesso con lui ho omologato 3 watt, omologato te, omologato un interpiato. Però bisogna sapere in quale nazione possono usare i 3 watt, ma chi, c'è anche questo. Chi è che chiama? Eia, ciao a tutti, buonasera. E beh, telefonato avevi, Giomari? Eia, ciao, mi diglielo. Allora, l'apparato vogliono quelli nuovi. c'è, targati c'è, i vecchi bisogna metterli, non buttarli, ma bisogna metterli in uno scaffale, l'importante è che non funzionino, che non siano attaccati a nulla, non ti dicono nulla loro, non devono dire nulla, l'importante è che siano da una parte e dobbiamo trattare solo quello omologato c'è. Sì, sì, che vergogna, per carità. Che vergogna, che vergogna, per carità di Dio. Beh, io c'ho un Oran 48, l'avevo comprato la GBC, quanto sarà, 6-7 anni fa, l'omologazione c'è attaccata, ma non c'è la cosa c'è, però c'è scritto omologato col numero di omologazione, vabbè. 30 armadio è 30 armadio rimani, cosa vuoi ti dica? Non lo so, comunque, va bene così, arrangiami. Caccheruno, Vigilia, Vitra e Gianmaria. Oh, Bacchi, per rispondere a te ha ragione Gianmaria, bisogna vedere in quale nazione si possono usare i 3 watt. Ok, perché nella cosa americana, eccetera, ci sono altre normative, Francia, credo, eccetera. Per l'Italia, i portatili, tranne quelli amatoriali, che sono tutti da 5 watt, i portatili PMR e LPD, quelli devono essere da 500 milliwatt. Qualche normativa bisogna che poi andiamo a leggere, vabbè. La parte amatoriale è diverso perché insomma le omologazioni ci devono essere a norma CE, vabbè, io ho tutte radio, le HF amatoriali sono tutte a norma CE perché sono radio recenti, poi portatile lo stesso è un digitale analogico da 5 watt però sempre amatoriale, quindi non è un problema, non lo so, vabbè. Avremo avuto l'Europa, Giamarì, eh? Mi sono mortadella, visto là, a posto l'euro, ci ha fatto andare in Europa, che l'Europa ci sta castagnando e ancora non c'è il governo, aspetta quando c'è il governo cosa succede, per carità. Grazie dell'info, Giamarì. Così sono sicuro di quello che mi hanno detto, perché io, come ti ho detto ieri, mi sono informato qua a Sassari e le stesse cose che hanno detto a te hanno detto a me. Ok, vi ringrazio, buon proseguimento di questo e la cena è pronta. Ciao Gianmaria, ciao Tore, ciao Macchisio e tutti quelli che sono sul 23. Riprendi Tore. Ok, ci sentiamo e buona cena, ce la devi fare, me la devo fare pure io subito. E andate, va bene così là. Ciao Claudio, ci sentiamo, buona cena. Alle prossime, vai Macchi. Ciao Claudio, buona serata, buona cena, state bene, ciao ciao. E così ci morire. Bene, a prendere il buco. Purtroppo devo dire alla caccia a sé. Adesso vediamo un po' cosa esce fuori. Vuol dire che faremo con un altro sforzo e questi qua li mettiamo dalla parte. Ma occupano troppo posto, allora conviene direttamente buttarle. Cosa ne fai? Cosa ne fai? A cosa li lascia fare in casa? Buttali e basta, boh. Buonasera. Buonasera, signor Marco. No, Giovanni, un giorno magari cambiano ancora questione e le risolviamo. Dice, usate la roba vecchia. E infatti, prendete la roba nuova, no, è la vecchia, acido. Prendete la roba vecchia, la vecchia fa più bene di quella nuova. Avanti Marco. Eia, buonasera a tutti. Non buttate niente. Che Natalino gli hanno detto chiaramente che loro dovevano fare altre cose più importanti, a loro manco gliene frega di fare le fesserie dal baracchino. Detto questo, sto provando il baracchino omologato Polmar ZX40. Questo non sarà un granché, però è omologato a norme CE e lo devo dare a Natalino. Hai sentito, Bacchi? Sì, ciao Marco, buona serata. Hai capito, le norme CE. Va bene, no? Cos'è? sicuramente la modulazione sarà un po' cupa, però purtroppo questi baracchinetti piccoli sono tutti così. Ed è AMFM. Stasera stesso dice che loro hanno cose molto più importanti a cui pensare, di questi baracchini non gliene frega niente, lì è stato un caso perché hanno raccolto le firme, hanno chiesto un intervento, capito, si era scomposto, però se uno non ha problemi di TVI con condominio o roba del genere non deve temere nulla, nulla, nulla. Comunque Natalino, questo glielo do, glielo sto già preparando, dove volevo provare con voi, adesso piglio la scatola, c'è tutto, c'è il certificato di conformità e quindi gli do questo. L'hai compreso, signor Bacchi? Sì, abbiamo compreso come la situazione. Ehi, fermo che da maniera avremmo. Se mi chiamo chi sono omologato, proprio, e trattiamo chi sono. Faccio poi che trattiamo molto, certo, per noi che siamo il circondario così vicini, va benissimo, ma poi se la radio non è amplificata che se ne frega, l'importante è che ci capiscono e basta, siamo a posto, capito? Così è Marco. Eia, datemi un parere sulla modulazione, com'è troppo... pessima, com'è, troppo incomprensibile, comprensibile, com'è? Ah, io ti sento bene, va bene, va parecchio, come tu hai definito, va benissimo, cosa vuoi pretendere di più? Magari se le metti un preamplificato la radio rimane più potente, più alta, e così che, però va bene anche così, perlomeno, io lo penso in questo modo, vai tu. Da me stai arrivando benissimo, la radio è perfetta, è buona, già si capisce tutto quanto, non è tutta, già va benissimo. Vabbè, tanto io ne approfitto. Ci sentiamo anche mi sociamenti. Ci sentiamo alle prossime, Gio Maria. Ciao Marco e ciao Bacchigio. A domani, se va tutto bene. Ok. E buona cena a tutti. Ok, d'accordo tu. Fatti vedere, dai. Che ti farò vedere con la questione, che mi dai un consiglio. Ok, ciao, buon proseguimento, buona cena, vai. Ehi, ciao Antone, buona serata, buona cena, sono con la signora, ci sentiamo domani più tranquilli. Anch'io, suo marito, devo fare la stessa sorte di Antone, mi aspettano per le 8. Ciao Antone, buona serata, grazie della piccola chiacchierata, anche a Fermaro, vuol dire con le fantasie. Sentiamo le prossime. Ciao Marco, ciao tu, ciao Maria. Ma qui ti fate il cuore. Ciao, ciao. Vai Marco. Eia, ciao Squalo, vedo sì, che caspita è tardi, sono le 8 passate, dai. Va bene, ciao Torre Squalo, ciao Bacchigio, buona cena, buon proseguimento di serata. Ho visto che questo baracchino roba costava poco, mi costava una miseria questo qua. È un Polmar ZX40 con display blu, piccolino, glielo passo a Natalino, almeno può ricevere, capito? Ricevere, poi per trasmettere il problema rimane, anche se è omologato e disturba, cioè, questa volta però lui disturba per la colpa degli altri che hanno le antenne marce, pochi parauli, è una cosa che abbiamo già detto. Se li richiamano lì, quelle scomposte non lo so come va a finire, fatto sta che questo è omologato, faccio glielo do, sto cercando anche la scatola, glielo sto prestando naturalmente. Ok Gio Mari, dai, buonasera, adesso è ora di cena anche, dai, già ci sentiamo, ok, buona serata, ciao. Ok va, sai cos'è, ma ti rompo le scatole, perde tanto tempo e hanno sempre ragione loro e cosa vuoi fare? Tanto se metto l'avvocato di costa la marcia così, tanto vale lascia perdere tutto e c'è la buonanotte. E capito com'è la pazienza. Se uno disturba con quello lì, devo dire che la questione è seria veramente. Abbiamo sempre il torto noi, capito? Noi non dobbiamo disturbare altri giorni, con cui si dice la legge. E per cui boh, è da vedere. Vabbè, comunque, riproviamo e vediamo un po' la questione come va. Ciao Marco, allora, buon proseguimento di serata, buonasera, ecco, salutami la signora e ci sentiamo, ciao. Adesso te la saluto, dai, ciao, buona serata, ciao ciao. Ok, ciao, anch'io chiudo allora, dai. Buonasera anche agli ascoltatori. Ciao, ciao a tutti, ciao, buona cena. Ciao, qua, ci sentiamo. Giovanni, sono qua che sto scrivendo una cosa al computer, ma è pronta la svena. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ok. Pirata, ancora vivo, sì. Oh, Claudio, come la modulazione? Questo glielo voglio dare almeno per ascoltare. Per ascoltare. Perché l'antenna c'è poco da fare, è troppo bassa, troppo bassa. Però almeno può ascoltare, capito? Non so, vedete voi, io non mi metto in mezzo a niente, le normative sono quelle, vi ripeto, ribadisco, occhio, molta attenzione, perché ve l'ho già detto, la banda del gobbo è di nuovo all'attacco, quindi bisogna stare molto attenti, sia da una parte che dall'altra, non è che si può andare a rifugiarsi da altre parti, bisogna avere le cose in regola, perché se ti piombano, o che disturbi, o che non disturbi, se stai sulle balle a qualcuno fa una segnalazione, ti denuncia perché ti vuole male, vengono a controllarti e lo sai cosa succede, capito? Quindi non lo so, vedete voi, ascoltare, non lo so, Marco. Guarda, io mi sono controllato tutte le mie cose normative, però essendo sperimentatori noi non abbiamo grandi rischi, anche se abbiamo radio che non sono a norma CE, ok? Perché io la linea che ho, la Lincraft, non è mica a norma CE, lo standard non è a norma CE, il 780 e la Kenwood, il base VE1 non è a norma CE, tutte gli altre sì, capito? Però bisogna stare attenti, non so cosa aggiungere, non voglio entrare in merito a niente, Marco, vedete voi, se glielo vuoi dare l'aglio, altrimenti vedrete voi, ok? Ciao, ci sentiamo. Sì, ma poi mi ha ribadito quello che gli hanno detto, dice noi abbiamo cose più importanti a cui pensare, a noi dice non ce ne frega niente dei baracchini, siamo venuti solo perché hanno chiesto un intervento, TV hai e siamo venuti a intervenire, capito? Va bene, buona cena Claudio, anch'io adesso mangio, non so cosa, ma qualcosa mangerò. Dai, sentiamo. La radio non mi ha detto com'è, troppo brutta? Guarda Marco, è una cosa, te lo dico da radioamatore e da CB, è una cosa vergognosa, potrebbe interessarsi ad altro, invece ti ripeto, ribadisco che sono tornate alla carica, il Ministero delle Telecomunicazioni ha bisogno di soldi e quindi stanno controllando queste stronzate per me. Poi ti ripeto, non voglio entrare in merito a nessun discorso, posso solo dire che in generale bisogna stare attenti, bisogna avere la testa per poter fare certe cose, lasciate perdere modifichette e giochi di Carruzzo, molta attenzione, questo ve lo dico con molta sincerità, perché mi dispiacerebbe che qualcuno per un hobby andasse incontro a cose veramente pesanti. Ok, ciao Marco, ti saluto, vedete voi, quello che vuoi fare fai, ok? Ti ripeto, ribadisco che non gliene frega niente, hanno altre cose da fare, ma hanno come obiettivo anche questo, ok? Ciao. Ma non mi hai detto com'è la modulazione? Non mi biasi, è Nasina, la radio che mi piace, lo sai qual è il 3009. Lo so, e questo è un Polmar omologato, norme proprio super omologato. Va bene, grazie Claudio del controllo, dai, ci accentiamo, dai, ciao ciao. Ciao, ciao Marco.